Allora, parliamo ora di pillole, tutto in 12 minuti al Teatro Studio 1 dal 22 giugno fino al 12 di luglio con Alessandro Di Somma. Ben ritrovato Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Tutto bene? Benissimo, alla grande, alla grande. Allora, raccontaci un po' di questa nuova trovata. Pillole cos'è? Non è niente di più che il nostro modo per trovare gli spettacoli per la nostra stagione teatrale. Abbiamo selezionato da più di 200 proposte 40 compagnie che si esibiranno in 8 serate e potranno esporre 12 minuti del proprio lavoro, scegliendo la modalità di svolgimento, anche un semplice racconto, oppure portare in scena un pezzo dello spettacolo, oppure semplicemente fare un reading. Sceglieranno il loro modo migliore per raccontare il loro progetto di spettacolo, che se verrà ritenuto idoneo a partecipare alla stagione diventerà dai 12 minuti lo spettacolo completo e debutterà nel Teatro Studio 1 nella prossima stagione, o in produzione, cioè prodotto da noi, o in coproduzione, o in ospitalità. Bene, quindi praticamente hanno fatto del loro lavoro una sintesi con una sua compiutezza. Beh, io credo che più che una sintesi sia proprio il gioco, secondo me, è proprio il mettersi in gioco, un po' come il convincere in 12 minuti che questo progetto possa essere in versione completa un progetto affascinante e ideale da mettere in scena, perché volevamo capire che selezionare soltanto sul progetto era un po' sterile ormai in questi tempi di oggi. Noi vogliamo vedere le persone in faccia, vogliamo conoscerle, vogliamo vedere come lavorano, vogliamo sapere chi sono, più che su un pezzo di carta, su un curriculum che spesso rimane fine a se stesso. Senti, come raccontaci un po' come sarà strutturato tutte queste giornate? Sì, ogni serata partiamo dalle 8, facciamo un aperitivo nel nostro cortile all'aperto e poi dalle 9 si partirà con le pillole, sono da 5 a 7 pillole a sera e abbiamo una giuria composta da pubblico che verrà a vedere gli spettacoli, addetti ai lavori, stampa e direzione artistica, che esprimeranno un giudizio sull'opera. Cioè, la domanda è questa: vi interesserebbe vedere il progetto completo nella prossima stagione del nostro teatro? Sì, forse, indeciso o no, semplicemente. Non diamo giudizio sull'opera, ma solo se lo ritengono interessante per entrare nella nostra stagione teatrale nel 2017-2018, anche perché quest'anno facciamo un grande sforzo, daremo il minimo garantito alle compagnie che parteciperanno alla nostra stagione, garantiremo delle produzioni, delle residenze, veramente faremo un grande sforzo economico, quindi vogliamo veramente essere sicuri del progetto che appoggiamo. Sì, sì. Senti Alessandro, visto che stiamo in fase di state ospitando insomma dei corti di lavori che ospiterete nella prossima stagione, facciamo anche un bilancio di quest'anno? Beh, il bilancio di quest'anno non può che essere molto positivo, anche se poi come sempre ogni anno si ricomincia da capo spesso. Invece ci vogliamo portare appresso le esperienze anche gli errori che abbiamo fatto nelle passate stagioni. Però quest'anno abbiamo avuto una grande apertura al quartiere, abbiamo avuto una grande apertura alle persone, abbiamo conosciuto tante persone nuove. Aver aperto uno spazio letterario sopra il teatro ci ha dato un nuovo sbocco alla popolazione di Torpignattara, quindi per noi questo è stato un anno molto denso di iniziative, molto faticoso, ma ci ha insegnato molto anche su cosa vuol dire fare teatro per popolare, un teatro non popolare in senso di commerciale, ma popolare per le persone che vengono a vederlo. E quindi ognuno deve avere la possibilità di scegliere uno spettacolo, un progetto adatto alle sue esigenze di spettatore. Non tutti gli spettacoli sono per tutti, però il teatro deve dare a tutta la popolazione anche uno spettacolo per lei. Insomma, cerchiamo di essere veramente includenti e anche in questo momento aperti alle critiche anche da questo punto di vista, perché spesso il teatro si parla un po' addosso, invece vorremmo proprio che gli spettacoli parlassero alle persone in un qualsiasi linguaggio, anche in maniera molto difficile, però che parlassero alle persone e non parlasse a se stesso, alle proprie problematiche, perché dei problemi del teatro e degli attori spesso interessa soltanto agli attori e ai teatranti, invece dobbiamo parlare al pubblico, certo, perché il pubblico è il nostro unico punto di riferimento. Alessandro, in chiusura diamo tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, collegatevi al nostro sito www.teatrostudio1.com o mettete mi piace su Facebook alla pagina Teatro Studio 1 o cercate Pillole 2017, pillole tutto in 12 minuti. Vi aspettiamo tutte le sere dal giovedì alla domenica, dal 22 giugno al 2 luglio. Venite e scegliete la vostra stagione. Ci vediamo lì, un abbraccio Alessandro. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Un abbraccio.